quartier. E riguardo il passato. Dall'effetto moviola, ho perso la parola. I love the marijuana quando è buona. Perso nel meraviglioso tunnel degli orrori. Non conservo serietà se sto di fuori. L'estate perso al Percival. Ne gonfio un'altra anche se l'ennesima. E faccio un tiro dopo l'altro. Mi riempio e sbuffo, me la gusto finché non termina. Ehi, dammi solo 5 minuti e sono pronto. Quante ne avrò fumate? Non tengo il conto. Ma so che rendo ogni giornata più serena. Così è molto più facile affrontare il mondo. Un altro tiro e perdo le vocali. Perdo consonanti, vedo i mutanti. Sconvolto nei locali, schiavo di altri mondi immaginari. Passami sto spliff che vedo in 3D senza gli occhiali. Smoking cartina, I love the signorina. Non siamo bravi con baracco, cazzo dei fottina. Smoca mattina, smoking pura sera. Dance in marijuana, buona resta la cartina. Smoking cartina, I love the signorina. Non siamo bravi con baracco, cazzo dei fottina. Smoca mattina, smoking pura sera. Dance in marijuana, buona resta la cartina. Beh, a posto. Rotazione a 360 del grinder, windmill di un breaker, salito dalla fame, stile Hannibal Lecter. Risate lingua secca, labbra incollate, mal di testa si innesca, vi prego non gridate. Occhi socchiusi, sguardo perso nel vuoto. Com'è che tutto balla se non c'è il terremoto? Scarso equilibrio ma non mi inginocchio. Dance in marijuana, ancora per molto. L'estate perso al Percival. Ne gonfio un'altra ma stavolta è un personal. E mi ritrovo dopo neanche 2 minuti sulla sdraio di una spiaggia pessima. Ehi, sento l'odore, il sapore di resina. È un medicinale, lo usa chi medita. Appena accendo mi ritrovo assalito da avvoltoi. Ma la passo solamente a chi merita. Smoking cartina, I love the signorina. Non siamo bravi con baracco, cazzo dei fottina. Smoca mattina, smoking pura sera. Dancing marijuana, buona resta la cantina. Fumo un'altra paglia e mi piglia. Libertà dei sensi, cervello in poltiglia. Quando manca il buon fumo dalla bottiglia. I love the signorina, ottava meraviglia. No one give a fuck, che fa la grossa. Iettata lì dentro l'Eva Frassemo. Datti una mossa, il più grande spettacolo dopo il Big Bang. E vedere ogni mia ex in una gangbang.